Siete Fewing, Kansas. Siete su Pandora. Forget the one tea wealth, dear. Lei è mia madre. Lei è Zahik. Lei interpreta la volontà di Emma. Il concetto è che ogni guidatore è collegato al proprio avatar, in modo che i loro sistemi nervosi operino in sintonia. Insomma, eccomi qua, a fare lo scienziato. Una pioggia che non finisce mai. A meno che non li fermiamo.